336. Lingua in umido. Prendete una lingua di manzo che senza la pappagorgia potrà pesare un chilogrammo all'incirca. Lessatela quel tanto che basti per poterla spellare e poi trattatela come appresso. Fate un battuto generoso con grammi 50 di prosciutto grasso e magro, la metà di una cipolla di mezzana grandezza, sedano, carota e prezzemolo, e mettetelo al fuoco con grammi 50 di burro, insieme con la lingua, condita con sale e pepe, rosolata che sia, tirate la cottura con brodo versato a poco per volta e sugo di pomodoro o conserva. Poi passate il sugo. Fate a parte un intriso con grammi 20 di burro e una cucchiaiata rasa di farina, e quando avrà preso il color nocciola, versateci dentro il detto sugo e nel medesimo rimettete la lingua per tenerla ancora alquanto sul fuoco e poi servitela tagliata a fette grosse 1 centimetro con un contorno di sedano o altro erbaggio rifatto nel medesimo sugo. È un piatto che potrà bastare per 7 o 8 persone. 337. Fegato di vitella di latte alla militare. Tritate ben fine uno scalogno o una cipolla novellina. Fatela soffriggere in olio e burro e quando avrà preso il colore rosso carico, gettateci il fegato tagliato a fette sottili. A mezza cottura, conditelo con sale, pepe e un pizzico di prezzemolo trito. Fatelo bollire ad agio, onde resti sugoso e servitelo col suo sugo, unendovi l'agro di un limone quando lo mandate in tavola.